Il sabato del villaggio. È il momento, ci cambiamo d'abito, cambiamo studio, no, non cambiamo studio, abbiamo solo un co-conduttore in più perché la terza ora del sabato del villaggio è quella di RadioTube. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, io passo le due ore del sabato del villaggio aspettando solo questo momento, l'arrivo di Daniele Bellasio per RadioTube. Io invece spero non finiscano mai le due ore precedenti, tanto sono belle e ascoltabili in macchina. Allora, questo appuntamento con RadioTube racconta come sempre l'imperdibile, l'imperdibilissimo, tutte quelle cose, cioè i video che sono andati di più in rete e che sono stati commentati di più sui social network, dove, come sai, ci sono legioni di imbecilli sui social network. Si può dire, perché è stato sdoganato da un professore importantissimo, Umberto Eco. Sui social network pare ci siano legioni di imbecilli che hanno, da quando ci sono i social network, diritto di parola. Mentre, allora, facciamo una cosa, siccome so che cosa di Eco ti ha proprio... Non cambiare palinsesto. Ma no, perché ne parleremo. Guarda, te lo prometto, Daniele, Ma col sorriso ne parliamo. Col sorriso, eri arrabbiatissimo. No, vabbè. Mi hanno detto che hai scritto delle cose su Twitter. No, ho scritto tante cose, sono stato un po' logorroico, ecco. Se si può esserlo in 140 caratteri. Comunque... dunque, l'hashtag è RadioTube, sì. L'hashtag del sabato del villaggio è ISDV. Sì, lo cambierò perché ormai lo sa memoria. Non lo sbaglio più. Invece gli account sono @MartaCagnola @DiBellasio. Perfetto, parliamo delle persone di cui si è parlato di più questa settimana. Dai, una breve carrellata sulle persone che hanno fatto parlare di sé. Beh, questa sicuramente l'hai sentita. L'estratto è da Rai News 24. Ha toccato terra in questo momento Samantha Cristoforetti e con lei i suoi due compagni di viaggio sono tornati sulla terra. E Malè e tutta l'Italia, se posso permettermi, applaude per il ritorno della nostra astronauta. Beh, ne hanno parlato tutti perché, parlato per mesi. Perché, ecco, lei era una delle twittatrici più compulsive dallo spazio, sì. Presente molto negli show televisivi, sì. E infatti in rete subito il dibattito, adesso no, si farà intervistare. No, il mondo si è diviso tra gli annoiati e gli entusiasti, sì, per Astro Samantha, no? Sì. Chioccio Astro Samantha. A me lo spazio mi annoia, non so perché. Non hai mai sognato di fare lo astronauta da bambino? No. È una cosa che tu dici, lo spazio, ci saranno altri mondi oltre a questo, Non mi interessa, non so perché mi annoia. No, invece a me piaceva tanto argomento. Il maggiore Nelson quando ero piccola. Chi era? Quello di Larry Star Trek? Hagman, no? Quello di Strega per Amore? Quella della streghetta Ginny nella bottiglia. Lui era astronauta. Ah, no, però gli astronavi delle nostre infanze sono Star Trek. Vabbè, ma io però sono una femmina. Però mi annoiava persino un po'. Era più da femmina. Era più l'altro. Da femmina, Strega per Amore. Allora, tutti a parlare di Samantha Cristoforetti e tutti già a criticarla perché andrà in tutte le trasmissioni TV. Ma poverina, è ancora in Kazakistan. Povera Samantha, già la critichiamo ancora prima che possa aprire bocca e soprattutto che possa camminare. Mi ha fatto impressione il fatto che Ecco, quello sì, quello mi interessa. Non sappiamo un sacco di cose di quello che accade quando uno sta nello spazio così a lungo. Mamma mia, io che ho la claustrofobia al solo pensiero. Sì, io mi soffro sento di vertigini. Pensate, insieme facciamo mezzo astronauta. Ma pensa che equipaggio. A parte che, vabbè, ci ammazzeremo dopo due minuti io e te chiusi nella navetta sullo spazio. Vabbè, a proposito di persone di cui si è parlato molto in rete in questi giorni. Beh, ovviamente Fedez, perché ha litigato. Ha litigato, non si sa bene come sono andate le cose, perché... Ci sono più versioni dei fatti. Sì, ci sono più versioni dei fatti. La prima che è arrivata è che lui, avendo rifiutato un selfie con una ragazza, poi ne sia nata una rissa in questo luogo molto noto di Milano che si chiama Giascavalli Caffè, una rissa, e poi arrivate le forze dell'ordine perché questa ragazza sarebbe rimasta ferita perché lui avrebbe gettato una bottiglia, però lui si è difeso ovviamente con un video in rete, mm-hmm. E tra le altre cose ha detto così: ho paura che alcune forze dell'ordine pensino che io sono un loro nemico, assolutamente io rispetto per il lavoro che fanno, sono una persona civile che crede, ha un forte senso civico, non si permetterebbe mai di insultare gratuitamente un agente di polizia. Mi dispiace dell'accaduto, sono avvilito e in questo momento sono stanco, non ho chiuso occhio e sono anche un po' spaventato. Beh, insomma, non si può sapere poi come sono andate le cose. Beh, sicuramente era meno, come si può dire, meno assertivo del solito in questo video, era più umano. Beh sì, poi dice spaventato, sì, mi sembrava piuttosto, sì. Anche perché la rete, lui la naviga molto, la naviga molto bene, però... Chi di rete ferisce, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Che dire? Vabbè, si è parlato tanto di lui, però sai invece chi è stato il mio preferito in questi giorni per concludere questa carrellata? No, il Presidente della Repubblica. Oh, finalmente! Perché parliamo di Mattarella, che non è un Wizzi. Uomo molto social network, però... Gli account ci sono, sì, iniziano sì, a muoversi, sì, però sì. Ha avuto un guizzo bello. Io aspetto dei guizzi perché secondo me ci offrirà molto, sì, perché sì, è un uomo si vede. Dall'aria così, secondo sorniona. Me in fondo sorniona, anch'io sorniona, stavo usando dopo questo aggettivo. Ti piazza la battuta. Allora, presentazione dei David di tu Donatello, c'eri, dei immagino. Candidati, no, no ero no, a Milano, non ero a Roma, lavorando. No, ero a Milano. Tra gli altri ha incontrato Quentin Tarantino. Quentin Tarantino al Quirinale conosceva bene Pulp Fiction, il presidente Mattarella. Mattarella che guarda Pulp Fiction deve essere una roba bellissima. È una scena straordinaria. Così si allena la politica italiana. Certo, ma per quello ci vuole anche Kill Bill. Comunque, sentiamo cosa ha detto Mattarella a Quentin Tarantino. Il mio invito è che il confronto tra istituzioni e operatori del cinema prosegua e si faccia sempre più intenso, sempre più proficuo. Uscire dalla crisi non è facile. Signor Tarantino, anche se ci prestasse il suo Mr. Wolf, non credo che lui da solo riuscirebbe a risolvere tutti i problemi. Beh, sono il signor Wolf, risolvo problemi straordinari. Sì, e ora tu vedi la platea che era, come dire, non si poteva aspettare una battuta da Mattarella. La frazione di secondo. Ha fatto la battuta. Sì, prima dell'applauso. Anche perché stupore. La frase precedente era serissima, il rilancio, sì, le cose. E tac, ha piazzato lì. Sai di cosa parliamo tra poco? Non ti sei lo divertito so. Molto la settimana scorsa con il calcio? No. Dai, guarda, torniamo a parlare di calcio. Lo voglio dire, ho sofferto, mi dispiace per l'Italia, il nostro paese aveva una squadra in finale che meritava di più. La partita che c'è stata Buffon contro Barcellona è stata una bella partita comunque. Ma senti che gufo, tra pochissimo, tra qualche istante, dopo il traffico del villaggio. YouTube. Oh, Astro Daniele, mi piace questa dopo cosa il traffico del villaggio, non nello spazio. Non nello spazio. Astro Daniele, Astro Marta, dai, facciamo una navicella spaziale. Che di vertigini, e una di claustrofobia. Che bella, cioè, non possiamo perfetto. Andare da nessuna parte. Astro Daniele, hai smesso di gufare. Sì, no, quest'oggi vorrei essere un po' più serio, perché l'altra volta veramente, siccome poi l'obiettivo l'ho ottenuto, diciamo. Ma siete stati tu, Dario Ricci e Cristian Rocca, tremendi. Però ti ricordi che io continuavo a dirti durante la trasmissione 3-1, sono 3-1, io ero l'uno da solo contro i tre. Ah, tu stavi facendo, capito? Era un pronostico. Vabbè, comunque, vabbè. Però oggi invece ne parliamo in modo molto serio. Io vorrei tornare intanto sull'immagine più poetica. Sì. Allora, sai che io ero laica. Però c'è laica. Qualche calciatore che ti piace di più. Sì, sentiamo questa cronaca spagnola, adesso ti spiego perché. E la cuspide del football español, el equipo del Barça. E in questo momento, in questa telecronaca, sì. L'immagine di Pirlo che piange. Ma sì. Guarda, il cuore che mi si è spezzato. No, anche perché era il giocatore in fondo più esperto, però c'era anche il fatto che lascia la Juve, sì, tutte queste poi, cose guarda, qua. Però ti posso dire anche un'altra cosa, un'altra sì. Bella figura di quella parte, Buffon. Perché Buffon, lo dico da interista convinto come sai, merita questo pallone d'oro da anni ormai. Vero. E ha fatto una partita strepitosa e alla fine della partita le parole giuste, tranquille, cioè è una parte di me per una frazione di secondo è diventata juventina, una frazione di aspetta secondo, che adesso piccola... poi chiedo bene, di tagliare questo pezzo, esatto, della tagliamo, diretta tagliamo. A parte questo, la notizia relativa alla Champions è un'altra in questi giorni, rivoluzione Champions. rivoluzione perché lo si sapeva, i diritti sono passati a Mediaset, sì, e abbiamo saputo intanto che la Juventus la vedremo in chiaro solo dopo i gironi di qualificazione. Beh, la vedremo. Ah, perché tu dici, vabbè, vedremo. Per sapere un po' tutte le novità, io sono stata a Santa Margherita Ligure, dove Mediaset Premium ha presentato appunto tutte queste novità, e ne ho parlato con Pier Silvio Berlusconi, che però mi ha detto così. Ho chiesto alla squadra di Premium, in particolare a Franco Ricci, che è anche grande esperto di tecnica, di studiare qualcosa di veramente nuovo che dia la sensazione di riprese, ovviamente adesso esagero, ma come non se ne sono mai viste. E questo è possibile grazie al fatto che, avendo preso il pacchetto C, noi possiamo integrare la ripresa delle partite che facciamo noi come vogliamo. Quindi spero che l'anno prossimo si veda qualcosa di nuovo. Anche perché avete parlato di un racconto diverso della Serie A. Dall'altra parte, sì, linguisticamente si poneva molto l'accento sull'epica, sul... Voi dovete trovare un registro diverso? Ci sarà un racconto che sarà di sicuro nuovo, moderno. Poi bisogna parlare con Brandi, col direttore. Ma... Bisogna parlare con Brandi? Bisogna parlare con chiamiamo. Alberto Brandi, il direttore di Sport. Lo chiamiamo? Il direttore di Premio Sport? Tic. Direttore Alberto Brandi, ci sei? Bisogna parlare con Pier Silvio. No! No, Pier Silvio ha detto che dobbiamo parlare con te. Allora, Pier Silvio mi dice: bisogna ciao, parlare Marta, con te. Ciao, direttore. Allora, non è una cosa da poco. Da un certo punto di vista c'è un cambiamento di abitudini, un cambiamento di piattaforma, ma per voi si tratta anche comunque di inventarsi un nuovo linguaggio? Guarda, per noi è una grandissima sfida. Tu eri presente a Santa Margherita, ti ricorderai nel nostro video di presentazione, la prima immagine era quella di Bob Dylan che cantava Times They Are Changing. La redazione sportiva di Mediaset è la redazione sportiva più antica, più anziana di Mediaset. Con questo gruppo di lavoro ormai consolidato ed esperto, come ha detto Pier Silvio poco fa ai vostri microfoni, affrontiamo questa grande sfida di cambiamento, perché vorremmo cercare di impostare un nuovo modo di raccontare lo sport che risponda ai tre comandamenti, ai tre pilastri fondamentali di questa nuova Mediaset Premium, che è divertente, facile e smart. Vorremmo essere così un po' più italiani, un po' più semplici, come appunto ho appena detto, divertenti e smart rispetto alla concorrenza, meno British, essere un po' più vicini, più compagni nei confronti del telespettatore. Devo dirti che questo cambiamento ha alle spalle un percorso che dura comunque da qualche anno. Noi dal 2000, gennaio 2005 stiamo raccontando la Serie A, la Champions League, l'Europa League, la Serie B sulla nostra piattaforma Pay, portando comunque sempre in parallelo la nostra esperienza di informazione sulle reti in chiaro, perché il segreto della redazione sportiva di Mediaset è che è multimediale in tutti i sensi, un unico gruppo di lavoro serve le diverse declinazioni dell'informazione sportiva sulle nostre reti. A proposito di multimedialità, è una cosa che poi spesso cita anche Daniele, la rete, l'interazione con, sì, la rete. Daniele, tu dici spesso che si tratta di inventare nuovi modi di comunicare il calcio. Sì, e che lo sport in generale, il calcio in particolare, finora non ha trovato, non è stato, come dire, capace di trovare un suo linguaggio molto particolare sulla rete. Magari anche questa sarà una sfida che potrete affrontare. Sì, certo, perché la rete è il nuovo bar dello sport. Prima, sì, ci si ritrovava il giorno dopo a bere il cappuccino il lunedì mattina con la Gazzetta o gli altri quotidiani sportivi e si litigava, si discuteva sulle vicende domenicali. Adesso è tutto molto più immediato. Noi già da questa stagione comunque cerchiamo di coinvolgere maggiormente il telespettatore, diventa quasi un protagonista dei nostri pomeriggi, delle nostre serate, con l'interazione. Addirittura da quest'anno porgiamo le domande migliori della rete agli allenatori che si presentano in diretta. giustamente per Silvio ha nominato il pacchetto C. Il pacchetto C, lo ricordiamo ai vostri radioascoltatori, non è riferito alla Champions, ma è riferito alla Serie A e dà dei vantaggi, dei plus che ci permettono di proporre ai nostri abbonati un prodotto differente e più qualitativo. Tanto per capirci, dall'anno prossimo a Milanello, per i collegamenti durante la giornata e durante la settimana, ci saremo solo noi. Ah, questo perciò... è bello, il sogno di tutti i tifosi è vedere di più quando si allenano, dove si allenano. Io che sono stata una volta a Milanello. Io a Piano Tante. Io sono stata perché questo ho fatto quella che non ne capiva niente, mi sono fatta portare dappertutto. Chi c'è? Che calciatore c'era che ti piaceva? A me piaceva molto Ambrosini. Ah, bravo ragazzo. Vedi. Ma invece parlava Pier Silvio Berlusconi del fatto che ci saranno immagini mai viste, quindi grandi innovazioni dal punto di vista dell'immagine. Ma si può innovare anche un po' dal punto di vista della telecronaca, del racconto? Ci puoi magari dire qualche anticipo? Come piace a te un modo nuovo di fare un racconto sportivo? Guarda, noi stiamo proprio in questi giorni stiamo affrontando quello che potrebbe essere un nuovo modo di raccontare lo sport anche nelle telecronache. Non è semplice, anche perché è difficile scalfire le abitudini del telespettatore che sente la telecronaca in un certo modo nel suo sviluppo. Certo, la telecronaca di questi ultimi tempi non è quella di Nicolò Carosio. La telecronaca che ha in mente il telespettatore è quella del videogioco, è quella di FIFA 2015, di PES 2015. Però ecco, già il ruolo della seconda voce, che è un ruolo che ormai è stato assorbito da tutti i telespettatori per tutti gli sport, perché anche il torneo di bocce che va in onda sul canale minore ha sempre una spalla tecnica a disposizione del telecronista. Ecco, a noi piacerebbe che, partendo dal ruolo della seconda voce, che deve essere un po' più mirato all'analisi e al commento, si porti al telespettatore nuovi elementi. Non ti nascondo che stiamo prevedendo stiamo valutando un ruolo rivoluzionario per la seconda voce, che potrebbe essere anche non impostazione commento. Ma su questo stiamo ragionando. Ah. Invece, quando fate le telecronache, quella del canale tifoso, quando fate l'Inter, sì, qualche volta ti mando Bellasio. No, però... ma non credo di poterlo fare. Guarda, cioè, quando fare, bisogno proprio... lui poteva fare la telecronaca del gufo per la finale. Sì. Ecco, la prossima volta che hai bisogno di un gufo, proprio te lo spedisco. Sì, sono debole di cuore. Però devo dire che io ti vedo soprattutto su Instagram, nei social, usi un po' meno Twitter. No, a proposito di social, io penso di essere stato uno dei primi a essermi iscritto a Twitter, perché novembre 2009, andate a controllare pure sul mio profilo, uno dei primi a essermi iscritto a Facebook, ho una fase di euforia iniziale, poi divento molto contemplativo, anche perché per un giornalista sportivo un semplice post di commento viene subito valutato negativamente, cioè purtroppo lo sappiamo, sì, il popolo dei social è un popolo molto particolare e sui social, un po' anche per l'anonimato, succede di tutto. Di conseguenza, dopo una prima fase di euforia, preferisco utilizzare Twitter e Facebook più che altro per la consultazione, per l'informazione. Poi apprezzo naturalmente tutto quello che scrive Marta, no, anche perché vorrei farti in occasione di un programma di riferimento della mia vita. Esatto, perché volevo farti notare che il tuo ultimo tweet era su Eurovision. Esatto, stavamo parlando di Eurovision perché la famiglia Brandi ha solo un appuntamento importante dell'anno, è mettersi davanti a Rai. Vabbè, 2. Quindi dopo il pacchetto Mediaset Premium per la Champions, noi dobbiamo abbiamo capito l'Eurovision Song Contest, che è un po' la Champions dei campionati di canzoni. Vabbè, esatto. Beh, straordinario. Infatti io penso che un'evoluzione del commento sportivo post partita potrebbe essere collegarsi con tutto il mondo, perché è la cosa che mi piace di più delle canzoni. Io preferisco poi le votazioni per dare i voti, le pagelle ai giocatori. Direttore, grazie per essere stato con noi. È stato un grande piacere, ragazzi. In bocca al lupo. Allora, grazie direttore. Ciao. Allora, dopo questa chiacchierata con Alberto Brandi, sì, una piccolissima pausa, perché dobbiamo parlare un po' di Instagram adesso, sai? Sì, grandi novità, grandi novità, a tra poco. RadioTube. Rieccoci insieme per la seconda metà del nostro RadioTube, che poi è l'ultima mezz'ora del Sabato del Villaggio, del Marta Cagnola, con Daniele Sabato Bellasio, della trasmissione del millennio. Chiocciola Marta Cagnola, chiocciola di Bellasio, hashtag RadioTube, per parlare adesso di Instagram. Sì, io sono chiocciola Marta Cagnola su Instagram. Sono sempre Marta Cagnola. Io su Instagram. Sono sempre. Sai che non mi ricordo. Oddio, poi non me lo ricordo. Adesso no, controllo cosa Instagram. Non è su che lo usi tantissimo. Mi incuriosisce molto, ma sono un po' così. Sono in soggezione in confronti di Instagram. Infatti, volevo capirne di più. Siccome è il social network del momento, perché cambia un po' la grafica, le cose, perché tutti politici, sempre più politici, sempre più notizie legate a Instagram. Vabbè, Berlusconi si è saputo, poi dopo tanti altri. Ma non conduci più, faccio tutto io. No, intanto stavo cercando il tuo account Instagram. Io vado, sì, sì, tu sei di Bellasio, l'ospite. Sei di Bellasio anche di Bellasio, su Instagram. No, perché se ne parla tanto anche. Ma non mi segui, in questi ma uno scandalo. Ragazzi, in diretta si scopre che Marta Cagnola non mi segue su Instagram. È una cosa gravissima, mi alzo e me ne vado. Presenta l'ospite. Allora, no, voglio prima presentare, raccontare una cosa che... Ma adesso si è seguito da solo. Ho schiacciato verde, sono diventato verde. Si è seguito da solo sul mio Instagram. Questa settimana sì. Qualcuno è stato fotografato in una posizione compromettente. Sì. Però, ma non si parla di sesso. No, non si parla di sesso, si parla di un vizio. Di un vizio, di un altro vizio. Presunto, di un vizio. Presunto, perlomeno, le sigarette. Le sigarette. Barack Obama è notorio da tempo. Ha smesso da 6 anni, perché sì. Michelle si arrabbiava. Sì. Lui Michelle ha detto che aveva paura. Sì, allora basta, ho smesso. Però, cosa è successo questa settimana? Una foto. Sì. Innocente innocente, sì, scattata probabilmente da non-fup, dal portavoce del nostro presidente del consiglio Matteo Renzi al G7 in Germania. Ritrae Barack Obama che parla con Matteo Renzi, sì, che ma però Barack Obama ha una posizione delle mani, sembrerebbe proprio avere in mano una scatoletta, e sembrerebbe che, insomma, sembra proprio uno che sta tirando fuori una sigaretta. Apriti cielo. Sì, la rete ha detto che là ecco, si stava annoiando e stava per fumare. Sai che questa cosa è finita al press briefing della Casa Bianca? Immaginavo fosse quello originale, quello sì. Proprio vero, quello ufficiale. Non West Wing. No, quello vero che si fa il giovedì. Josh Earnest, portavoce, deve rispondere a questa domanda di questa giornalista radiofonica April Ryan, che l'ho lasciata in inglese, dice così. There seems to be a picture that's going around making the news with President Obama meeting with the Italian Prime Minister. Dice, c'è una foto di Obama con il primo ministro italiano. Questa foto, insomma, è su tutti i titoli, Is the president, does he have a pack of cigarettes in his hand? He does not. He does not. Non ha un pacchetto di sigarette. But I mean, did he tell you what it was? No, You may not be surprised to hear that I have not raised this issue with the president today. Cioè, lei sarà sorpresa, ma non ne ho parlato col presidente oggi, I'm not sure that's the way I describe it. It is everywhere. Check it out. It is everywhere, check it out. Questa foto è dappertutto, lo controlli. Insomma, controlli. Infatti, eh? The Politico ha pubblicato la foto mettendo come credit nonfub-instagram. Vorrei avere un parere da chi queste cose le segue veramente con passione. Abbiamolo, congiuntivo esortativo. Buonasera, Francesco Costa, direttamente dal posto. Buonasera, Francesco. Buonasera. Allora, intanto ti chiedo, ma secondo te erano sigarette o no? Io ho detto, magari, secondo me potrebbero essere delle golie. Cioè, sai quelle caramelle che hanno un po' la scatola, no? Potrebbe essere. Dalla scatola potrebbe essere. In realtà la forma, cioè la posizione delle dita di Obama sembra, ora stiamo facendo un po' i filologi di una foto, però sembrava come se lui stesse proprio prendendo una sigaretta, per come aveva messo le dita. E secondo me un ulteriore elemento che ha dato questa impressione era il contesto della foto, cioè loro erano immediatamente fuori a una porta a vetri che dava, diciamo, da una parte sul giardino e dall'altra su una sala interna. Cioè era esattamente il posto in cui due o tre che hanno appena finito una riunione dicono vabbè andiamo a fumarci una sigaretta qui fuori, e si mettono proprio davanti alla porta, come moltissimi nei ristoranti, negli uffici siamo abituati a vederne ogni giorno. E quindi questo fatto secondo me ha anche aumentato un po' l'impressione che Obama stesse per tirare fuori una sigaretta. E poi anche il fatto che non era una foto fatta da un fotografo ufficiale, era una foto un po' di queste rubate che scatta Filippo Sensi, cioè non-pup durante l'attività del presidente Renzi, e quindi forse qualcuno ha pensato magari ha fatto un guaio, non si è accorto prima di pubblicare che Obama stava tirando fuori una sigaretta. Queste cose però sono dei rischi del mestiere, perché Filippo Sensi, lo diciamo spesso, anche un po' ridendo, ha creato un nuovo stile sicuramente di fotografia. Queste foto rubate, sfocate, sgranate, particolari, che però comunicano molto, e però può succedere di tutto comunicando attraverso le fotografie, cosa che però in politica ultimamente si fa molto. E questo è il punto, cioè Instagram sembra ormai la smoking gun delle ambizioni politiche, insomma, dei leader, anche dei leader che ci sono da tempo. Questa settimana è arrivata Angela Merkel su Instagram, e in sostanza Hillary, con il ritorno su Instagram, ha rilanciato la sua campagna elettorale. Ma questo perché, Francesco, perché Instagram è il social più amato dai politici? Ma intanto, diciamo, per rispondere con una banalità che però è spesso vera, come si dice spesso, una foto vale più di mille parole, e quindi per un politico che vuole costruirsi un'immagine, costruirsi un profilo pubblico, è più facile ed è più comodo puntare sulle fotografie piuttosto che su un testo, che magari deve esprimere una posizione su un tema, e quel tema magari è un tema complicato, controverso, non tutti sono d'accordo. Invece la fotografia è così immediata che è più difficile che sia controversa o divisiva, come si dice adesso. E poi Instagram è un social network che è meno rumoroso rispetto a Twitter e Facebook. Ci sono meno disturbatori, c'è meno confusione in generale. Tra l'altro, una delle caratteristiche di Instagram meno note è che ti impedisce di mettere dei link a commento delle foto. Esatto. E quindi è poco usato anche da chi vuole fare dell'autopromozione. I siti di news stessi o i blog fanno fatica a promuovere i loro contenuti su Instagram, e quello che fanno quindi è semplicemente cercare di definire la loro identità attraverso le foto che pubblicano. Per i politici quindi cade a fagiolo, diciamo, perché pubblicano delle foto che di vita quotidiana, che poi in realtà sono sempre un po' costruite, o anche le stesse foto di non-fap hanno questa impressione di foto rubate, e lo sono, perché lui le scatta durante l'attività normale, non sono foto messe in posa, ma chissà quante ne scarta. Sarebbe bello vedere le foto che non ha scattato ma non ha pubblicato. Giusto. Allora, giusto. Hai citato l'account di Angela Merkel. Io ho scovato in rete un video satirico postato qualche ora fa da un giornale via web satirico, un TG satirico via web, che si chiama Wochenwebschau. Ecco qua cosa dice dell'account Instagram. In tedesco, eh? Ah, sì, di Angela Merkel, ja. Der große Merkel Instagram Check. Erstens, Selfies. Oberstes Gebot, bei Instagram braucht man Selfies. Auf dem Merkel-Account, Fehlanzeige, alle Fotos kommen von den offiziellen Fotografen der Bundesregierung. Adesso non è che ve lo faccio sentire tutto in tedesco, però questo giornale via web, questo TG web, dice che l'account di Instagram di Angela Merkel non va bene per alcune ragioni. Intanto, selfies, un po' di selfies, non tutte queste foto posate, e cita i casi di alcuni politici tedeschi che si fanno dei bei selfoni. Ma io la Merkel... Look, perché sono tutte un po' tristanzuole queste foto, invece... ma non ce la vedo la Merkel. Vabbè, ma invece Sarkozy, citano Sarkozy, ma guardate Sarkozy com'è tutto vedo, bello, cioè. Allegro. Hashtag, perché lei usa degli hashtag tedeschi, tristissimi, ufficiosi, tutti... Credito. Invece le consigliano, ad esempio, di usare TBT, Throwback sì. Thursday, cioè... Ah, no, pensavo TVTB. No. Escita potrebbe usare. Quel giorno della settimana in cui si postano le foto del passato per ricordarci un po' come eravamo foto da bambini, così. E poi l'ultimo punto è food porn. No, dai, non possono chiedere alla me. Questa è cattiveria. No, le chiedono di postare un po' più cibo e citano che l'account... Che peraltro funziona dal punto di vista dell'audience, perché mettendo esatto. Food porn... Citano l'account di Silvio Berlusconi perché dicono, guardi, signora Merkel, come bravo Berlusconi che ha postato le penne verdi, bianche, rosse, la pizza, posti, non so, dei würstel, della birra, anche lei. Dei krauti, vabbè. Vabbè, questo è l'account della Merkel. Però non è l'unica che ha aperto un account recentemente, l'unica donna politica. No, dice che l'aveva politica. Già, ma è tornata, non ho capito bene. Ah, Hillary? Dice che ce l'aveva già. Ce l'aveva, è tornata, sì, non sì. Ce l'aveva, perché così adesso col nuovo logo, rilancia. Bellissimo. Quindi, Francesco... l'interesse dell'account di Angela Merkel non mi pare brillantissimo. Io starei più a monitorare la signora Clinton a questo punto. Sì, secondo me, tra l'altro, Angela Merkel ha un account, diciamo, così sobrio a proposito di quello che dicevamo prima, anche perché è perfettamente nel personaggio. Cioè, probabilmente se lei twittasse il panino con i views, come diciamo prima, e i krauti o i selfie, sarebbe un po' l'effetto che fece Monti quando si mise il cagnolino in braccio. Vero. Cioè, voler fare il simpatico a tutti i costi, anche contraddicendo l'immagine che ci si è creati fino a quel momento. E quindi forse ha senso, è giusto che l'account di Merkel su Instagram sia triste e noioso. Hillary Clinton, secondo me, invece tenterà tutto un altro approccio, perché lei è vista oggi, e il suo problema è anche questo, è vista come l'establishment personificato, no? E quindi la sua prima foto è un po' un manifesto, la sua prima foto pubblicata su Instagram sono una serie di vestiti, e la didascalia è Hard Choices, scelte difficili, che è anche, sì, il titolo del suo libro. Francesco, ti chiediamo solo un attimo di pazienza perché abbiamo gli aggiornamenti sul traffico, però ti vorrei sfruculiare su un altro argomento tra pochissimi istanti. YouTube. E come passa il tempo, sì, quando ci si diverte. 101 volte passate. 101 puntate, ma è, sì, incredibile veramente. Sabato del Villaggio ne ha da farne per raggiungerci. Non si arriva più a questa quota di puntate. Bene, questa dulcis in fundo, l'abbiamo la detto all'inizio della puntata. Settimana. L'abbiamo detto all'inizio della puntata perché Daniele, no, scalpita. Non voglio, smania, non ci riesce. No, ma invece si ci riuscirò, perché adesso mi è venuta la soggezione nei confronti del professore, quindi non riuscirò a essere cattivo. Perché ma il social, sì, passa dall'altra parte, disinibisce, quindi si diventa cattivi, maleducati. No, scherzo. Mandiamo cosa ha detto. Allora, così spieghiamo chi, cosa, il dove, professor come. Umberto Eco. Oh, fai il bravo. All'università, in una, spiega tu, incontro con i giornalisti nell'aula magna della Cavallerizza Reale, sì, a Torino, appena ricevuto dal rettore Gian Maria Iani la laurea honoris causa in comunicazione e cultura. Ma no, te lo sto spiegando. Sarei per bene da cavallo. Comunicazione e cultura dei media, perché ha arricchito la cultura italiana e internazionale nei campi della filosofia, dell'analisi della società contemporanea e della letteratura, ha rinnovato profondamente lo studio della comunicazione e della semiotica. E su questo non c'è dubbio. Però poi a un certo punto lui si è arrabbiato incontrando i giornalisti con la rete e in particolare con chi usa Twitter. Il fenomeno Twitter, che permette a certa gente in fondo di essere in contatto con gli altri, perché abbiamo una natura leggermente onanistica ed esclude la gente da tanti contatti faccia a faccia, crea però da un lato un fenomeno anche positivo. Pensiamo a cose che succedono in Cina, o Erdogan in Turchia, è stato anche un movimento di opinioni. Qualcuno ha detto, se ci fosse stato internet ai tempi di Hitler, i campi di sterminio non sarebbero stati possibili, perché la notizia si sarebbe diffusa viralmente. Ma d'altro canto fa sì che dà diritto di parola a legioni di imbecilli, quelli prima parlavano solo al bar e dopo due o tre bicchieri di rosso. Vabbè, prima parlavano al bar, le legioni di imbecilli. Daniele, sì, si è arrabbiato tanto. Quanti tweet hai fatto su questa cosa? Ma sì, per una volta ho fatto una mini campagnuccia su Twitter. Francesco Costa, non di Twitter, del in difesa Post, del diritto di parola degli imbecilli, tra cui potrei esserci io in molte circostanze. Non è che siamo tutti Francesco Costa del Post, cosa ne pensi? Ah, volete dare a me la responsabilità di dire quello che pensate anche voi? No. Adesso poi lo dico, poi dico anch'io e poi faccio anch'io il mio coming out. No, insomma, è difficile mettersi a contestare quello che dice il professor Umberto Eco, intellettuale grandissimo che, secondo me, meriterebbe di avere delle opinioni un po' più approfondite su una cosa così importante come internet, Twitter, social network e quello che hanno determinato nella libertà di espressione in giro per il mondo. A parte perché, come diceva Daniele, sì, anche gli imbecilli hanno diritto di parola, diritto di voto, io ci aggiungo fortunatamente, perché siamo in democrazia, e diciamo, mi preoccupa un po' la preoccupazione di Eco per il diritto di parola agli imbecilli, che comunque ce l'avevano anche prima e quindi non è che sia cambiato molto. E poi voglio dire, se è vero che ci sono un sacco di imbecilli online, perché ci sono un sacco di imbecilli nel mondo in generale, se mettiamo sulla bilancia gli imbecilli e tutto quello che di buono internet ha dato, che non vale solo per le dittature, la Cina, che è anche un esempio facile, ma proprio nella vita quotidiana di noi utenti, diciamo, del mondo occidentale, che non ha grandi problemi di democrazia, la quantità di risorse, di voci, di pluralismo, di dibattiti interessanti, di risorse che i social network ci hanno dato è incredibilmente più grande di qualsiasi, diciamo, fastidioso rumore di fondo che c'è, ma che insomma non è sicuramente il tratto principale di questi strumenti, e basterebbe conoscerli un po', ecco, per rendersene conto. E forse Umberto Eco dovrebbe iscriversi a Twitter, facciamo ecco, una campagna invece ecco, no, certo, questo ecco, è ecco. Sì, io no. Ho pensato che comunque è un mezzo più potente di altri, ma è un mezzo, e prendersela con col mezzo è sempre un po' guardare il dito e non la luna. Però devo dire una cosa, io direi anche più bar per tutti, perché secondo me tornare a discutere un po' al bar potrebbe anche essere una buona idea. Sì, ma la mia preoccupazione, come dici tu, è che noi spesso attribuiamo al mezzo delle colpe anche un po' per deresponsabilizzare. Cioè, dobbiamo diventare noi migliori come persona. Non è che se uno in macchina diventa maleducato aboliamo le macchine. Diventiamo più educati in macchina, come al bar, come sui social network. Poi sai come la penso, e su questo ha ragione Francesco, dobbiamo andarci tutti sui social network per portare tutti gli anticorpi, se le hanno, e le hanno, delle democrazie liberali. Bello, sì, ma anche senza discutere se il mezzo comunque inciti un comportamento che magari altri mezzi invece non permettono. Cioè, questo, finalmente posso dire al politico X, sì, che è un cretino, prima non potevo farlo, adesso so che lo legge. E quindi sì, forse ha senso anche fare questa discussione. Però prendere questo tratto caratteristico dei social network come il tratto fondamentale, o addirittura la ragione per cui diffidarne o criticarli o comunque auspicare, come insomma Eco non fa direttamente, ma comunque fa tra le linee una riduzione, diciamo, del loro ruolo nella società, secondo me è esagerato, un po' pericoloso. In generale non è una grandissima opinione. Ecco, il dibattito su questi temi esiste, soprattutto all'estero, ma anche in Italia, ed è un dibattito molto più avanzato, che ha già superato questo tema e sta discutendo un po' più dei metodi concreti, come difendersi dagli insulti e dagli abusi su Twitter. È un tema molto, certo, molto attuale e importante, che non viene fatto in questi termini un po' semplificatori. La prossima volta propongo a Francesco Costa di portare il dibattito al bar, così ce lo facciamo davanti hanno uno sprizzino. Portato la Champions, sai, hanno portato il live tweeting del post. Non è proprio un bar, insomma, un locale, ma... Sì, appunto. Allora, prossima volta davanti a uno spritz, visto che è un civilissimo tifo per il Barcellona. Non so perché eravamo a Milano, però c'erano molti tifosi spagnoli. Ma che strano! Rinati. Siete impossibili. Grazie Francesco per essere stato con noi. A presto, Francesco Costa. Grazie a voi, ciao. Il tempo è finito o guardiamo Nirchiop? No, dobbiamo guardare sì quest'ultimo video, perché i tuoi per una preferiti. Ragione molto, molto precisa. Allora, sì. Nirchiop, sapete che mi piacciono molto, sono tra gli youtuber più bravi in assoluto, e hanno fatto questo video. Sapete a chi hanno dedicato l'ultimo video? E io penso a loro fortissimamente. Ai ragazzi che hanno l'esame di Stato, la maturità. Notte prima degli esami. Sì, tra martedì e mercoledì sarà la notte prima degli esami, gli ultimi momenti di sofferenza. Allora sentiamo, mostriamo alla radio un pezzettino di questo video dei Nirchiop sugli esami di maturità. No, non ho capito niente. Che ci vado a fare? Mi, per superare l'esame, tre semplici parole. Leccare il culo. A. Marto 5, ma come si permette? Ma ti sembra che stai esagerando? Quanti caffè hai bevuto? Mirko l'anno scorso ha fatto così, me l'ha consigliato lui. Sì, ma hai visto in che condizioni è Mirko adesso? Sono sveglio da un anno. Però adesso c'è un poco di sonno, penso che dorm... Ah, non posso dormire! Ti prego, aiutatemi. È inutile che fai così. Lo sai che all'esame il 50% è culo e l'80% è preparazione. Ma che cacchio di proporzione è? Hai ragione, il 90% è culo e l'80% è preparazione. Matematica. Beh, fantastico in matematica, il 90% più l'80% che fa... Vabbè, in bocca al lupo, in bocca al lupo. Ma tu te lo sogni ancora? La classica domanda. Sì, me lo sogno ancora. Me lo sogno ancora, e a volte sogno che non è valido e mi vengono a dire che non è valida la laurea. Ma il classico sogno di tutti fai. Ma che roba. Sì, lo faccio. In regia, no. Carmelo dice di no. Carmelo in regia non si sogna più gli esami. Neanche tu. Mai sognato. Non vi sognate gli esami? L'università un po' di più. No, io l'esame di maturità lo sogno ancora. Allora un in bocca al lupo a tutti i ragazzi. Sì, che bella estate avrete davanti. Dico solo questo. Sì, noi vi salutiamo. Il nostro tempo è scaduto purtroppo. Ci vediamo con il sabato del villaggio. Ti lancio sabato alle 15. Invece con RadioTube alle 17. Sì, sabato, che bravo, sempre. Che bravo, che signorino, buonasera. A presto e al prossimo sabato a tutti. Ciao.